Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Ci sono voci che accompagnano da sempre la storia italiana. Voci che hanno raccontato cambiamenti, amori, momenti storici. Insomma, che hanno fatto da colonna sonora la vita di tutti noi. Quella di Ornella Vanoni è senza dubbio una di queste. Emotiva, potente, intensa come nessuna. E dopo più di mezzo secolo di carriera, quando si pensa che su di lei tutto sia stato detto e scritto, la Vanoni si diverte a sorprendere ancora, come un'artista eccezionale, come una donna straordinaria. È una vita vissuta, l'ho pagata, sono stata felice, sono stata infelice, ho pianto, ho riso, ho amato, sono stata cornificata, ho cornificato. Ornella Vanoni oggi è quello che ha vissuto, tutto quello che ha vissuto, e ha vissuto tanto. Milano è la città che la Vanoni ama in modo viscerale. È nata qui sabato 22 settembre del 34 ed è qui che, dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo, preferisce stare. Beh, perché Milano è la mia città e io qui mi sento più coccolata che nelle altre. Si è anche candidata alle ultime elezioni comunali, raccogliendo 34 miseri voti sui quali, autoironica come sempre, ama scherzare. Posso dare una festicciola, sì. Figlia di un industriale farmaceutico, riceve un'educazione a metà strada tra la disciplina rigida di papà e le coccole di mamma Mariuccia. Timida, anticonformista, fuori dal coro fin da bambina, la piccola Ornella, quando sorride, si illumina tutta con quella bocca grande. È una sognatrice. Da ragazzina, già bellissima, si immagina il grande amore come quelli che vengono raccontati sui libri. Studia dalle Orsoline e poi frequenta diversi collegi, in Svizzera, in Francia e in Inghilterra. Ha un solo desiderio che sembra una beffa per chi punta tanto sul suo futuro. Vuole fare l'estetista. Veramente, io non volevo cantare, non ci pensavo proprio. Sì. Alla fine degli anni 50, Milano è molto diversa da oggi. È accesa, entusiasta, protagonista della ricostruzione del paese sia a livello economico che a livello industriale. È una Milano che cerca di lasciarsi alle spalle il passato per guardare al futuro, che accoglie gli emigrati dal sud ma che parla ancora in dialetto. Sta crescendo a dismisura. Lentamente diventa una metropoli e comincia a inglobare quei quartieri periferici che sono ancora come veri e propri paesi ai margini della città. Greco, Niguarda, Lambrate, strade in cui si conosce tutti. Bar che sono luoghi di aggregazione e negozi dove si svolge una vita di quartiere dal volto umano. La televisione ce l'hanno in pochi e invitano gli altri a casa per guardare insieme gli sceneggiati e il Festival di Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini. Il centro di Milano, non ancora invaso dai megastore e dal consumismo alla portata di tutti, conserva intatto il suo fascino. I vecchi tram cominciano a essere affiancati dalle prime utilitarie. Nelle case di ringhiera vivere senza privacy è una necessità. I giovani provenienti da ogni parte del mondo si mescolano nelle gallerie, nei teatri, nei cabaret, nelle osterie storiche. Gli artisti, come ricorda il critico Luzzatto Fegiz, sono felici e squattrinati. Milano in quegli anni, gli scrittori, i cantanti, gli autori vivevano in camere d'affitto. Cosa succedeva? Che la padrona di casa alle 10 del mattino, un bel calcione nel sedere, diceva: devo fare la stanza fuori dalle valle. E andavano nei caffè, dove c'erano le macchine da scrivere, dove si incontravano. E quindi nascevano queste cose incredibili. La Milano degli anni 50 è bellissima. Si tira tardi per le strade di Brera e dal mitico bar Giamaica passano tutti gli artisti e gli intellettuali. La signora Lina, la proprietaria, a mezzanotte prepara per tutti la pasta e i fagioli. Qualche volta va a mangiarla anche Ornella Vanoni, che è appena tornata in città dopo essere stata in collegio e si è iscritta alla scuola del piccolo teatro diretta da Giorgio Streller. Però senz'altro il mio bagaglio come attrice, il fatto che io abbia una certa tenuta scenica deriva dal fatto che so stare in scena anche in silenzio, per esempio. Non mi imbarazza stare in scena, cioè io ho paura, questo è un altro discorso, ma non mi imbarazza stare in scena ferma senza dire niente o fare niente. Cioè la tenuta scenica mi viene da lì e non dalla canzone. Questo non te lo insegna la canzone, te lo insegna il teatro. Questa volta no, non devi amarmi tanto, non devi amarmi troppo. Durerà di più se spandi un po' per volta l'amore che hai da darmi. Mi consumerai in 100 confidenze che mi fai. Ti consumerò in 1000 gesti complici tra noi. Quando Ornella Vanoni frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica al Piccolo Teatro, a dirigerla c'è Streller. Inquieto, affascinante, senza dubbio geniale, il maestro fa innamorare una allieva dietro l'altra. Con Ornella, che ha 13 anni di meno, vive un'intensa passione in cui il lavoro si mescola con la vita privata. E allora un giorno, siccome accompagnavo sempre Streller alle cose, quando facevo le opere liriche, in un angolo canticchiavo, non so, la Luisa di Charpentier. Allora lui fa: che orecchio! Cosa le facciamo fare a questa qui? La facciamo cantare. E io ho cantato subito per 2 ore. Non ho dormito per 3 mesi, cantavo tutta la notte. Ma avevo 20 anni, cavolo, volevo anche fare qualcosa di diverso. Non che Streller era fantastico, però io avevo 20 anni. È al piccolo che incomincia la grandiosa carriera teatrale di Ornella Vanoni. È bellissima, carismatica, ma molto timida. Il palcoscenico da un lato la attrae e dall'altro la terrorizza. Non riesce a vivere la preparazione dietro le quinte senza tormento e invidia chi prima di andare in scena va perfino a mangiare, tanto è sereno e rilassato. Che mi diverto proprio a cantare e non sono tantissimi anni, diciamo una quindicina. Durante i momenti di pausa tra gli atti delle rappresentazioni teatrali serve qualcuno che intrattenga un pubblico distratto. Streller chiede alla Vanoni di cantare e lei intona con voce particolarissima e spigolosa, a tratti perfino dura, le ballate della Rivoluzione francese. Qualcosa di molto politico, insomma, che ha poco a che vedere con il gusto popolare. È bravissima, ma come attrice non è certo da meno. Debutta nel 1956 con 6 personaggi in cerca di autore di Pirandello. Io come attrice ho avuto un immediato successo, sia di critica che di pubblico. Immediato, totale, assoluto, avrei fatto una carriera straordinaria. Come cantante invece io ci ho messo tantissimo, ho fatto fatica e proprio per questo ho amato di più l'essere cantante che attrice, perché mi è costato di più. Se alla fine degli anni 50 il teatro è molto politicizzato, il piccolo lo è in modo particolare. Ogni spettacolo, anche se racconta un'altra storia, viene declinato in questa chiave, o perlomeno si tenta di dare allo spettatore la possibilità di dare una lettura in quella direzione. Il gruppo di autori è un concentrato di genio, lungimiranza e creatività. Streller stesso, naturalmente. E poi Dario Fo, Fiorenzo Carpi, Gino Negri, Fausto Amodei. Sono tutti appassionati del loro mestiere e amici tra di loro. Partendo da vecchie ballate dialettali, si mettono a costruire delle canzoni che parlano di ragazzi uccisi in miniera, furfanti milanesi e carcerati calabresi. Sono le cosiddette canzoni della mala, che Ornella Vanoni comincia a cantare in modo strepitoso. Erano canzoni... Sì, parlane. Così, popolari, che parlavano dei problemi di gente povera, di gente così della Bovisa, di Milano. Alcuni erano testi scritti apposta e altri erano tratti così da delle idee, degli spunti veri. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista, un tipo che facesse il furto al volo, faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Ornella Vanoni ha una doppia anima. Da un lato portavoce della musica impegnata con le canzoni della mala, dall'altro si lascia tentare dall'allora nascente televisione cantando uno dei primissimi jingle pubblicitari di Carosello per il dentifricio Colgate con Gardol. Denti bianchi, bocca fresca! Sì, Colgate con Gardol. Il dentifricio Colgate con Gardol rimane attivo per 12 ore e più. Usatelo ogni mattina. Avrete una sicura difesa contro la carie e la bocca fresca per tutto il giorno. Denti bianchi, denti sani, bocca fresca tutto il giorno. Quando usate il Colgate con Gardol. Nel 59 Streller mette in piedi per Lavanoni uno spettacolo che arriva al prestigioso Festival di Spoleto. Intorno a lei adesso cresce la curiosità. Chi è questa ragazza fascinosa a cui il maestro è legato a tal punto da volerla sempre con lui? Il mistero viene alimentato anche dal fatto che Streller spaccia i canti per delle antiche ballate ritrovate, cosa del tutto falsa, visto che li ha scritti insieme ai suoi amici autori. Ma tant'è. Ornella Vanoni acquista la fama di interprete intellettuale, anche per il suo modo di sottolineare con i gesti i testi delle canzoni. Mentre la critica la celebra, però, arriva la censura radio-televisiva e piovono le prime critiche di snobismo altoborghese. Di tutto questo Ornella se ne infischia abbastanza. Ma di una cosa è certa, per quanto lusinghiero e stimolante, non è sempre facile avere 20 anni e passare le notti tra i più grandi intellettuali milanesi, mentre gli amici in giro scorazzano spensierati da un bar all'altro in cerca di avventure. Allora, arrivo in piazza Beccaria, dove c'erano tutti i cantanti, allora ci si incontrava lì, e vedo tutti contenti, questa qui con i capelli come una pazza, Mina con la spider, che rideva, cantava, dice, io voglio fare queste canzoni qua. C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire, che ogni giorno piange un po', invece Ornella vuole. Dopo il successo di critica con le canzoni della Mala, Ornella Vanoni sente il bisogno di vivere in pieno i suoi 20 anni. Non che l'ambiente del piccolo non le piaccia, ci mancherebbe, ma vuole lasciarsi andare a un po' di leggerezza. Basta con l'aria sofferta, la politicizzazione, la bocca grande truccata di rosso per aggiungere cupezza al volto. Adesso vuole cantare musica per la gente, e non solo per gli intellettuali, e abbandonarsi alla frivolezza. Un vestito nuovo, gli amici, la seduzione dei tacchi. Va bene, allora io... Per anni ho portato i tacchi, non rinunciavo ai tacchi neanche morta. Ma poi un bel giorno ho detto basta, basta tacchi, io mi metto i tacchi bassi, cammino comoda, sto tranquilla e ho trovato anche una mia centralità, anche interiore se vogliamo. Finché un bel giorno, sarà stato un attacco di vanità, un attacco masochistico, perché noi donne lo sappiamo, un po' masochiste lo siamo, i tacchi li hanno inventato gli uomini, noi siamo masochisti, ma non fino a quel punto, è che per piacere faremo qualunque cosa, ecco. Allora ho comprato i tacchi da 8, i tacchi da 8 si cammina, questi sono tacchi da 8, si cammina comodi, si cammina comodi. Poi io vorrei sapere cosa mi ha preso, perché io dicevo quei tacchi lì, ma bisogna essere cretine per comprarli. No, ma dico, fanno delle regolamentazioni, fanno le regolamentazioni europee, la lunghezza dei fagiolini, la lunghezza degli asparagi, la lunghezza dei cosi, dei freni, dei sedani. I tacchi? Niente. Allora, fino a 12 si cammina, questo lo posso garantire, con fatica, ma si cammina. Al tredicesimo centimetro non si può camminare. È una nuova Ornella, quella dell'inizio degli anni 60. Libera, aperta a nuovi stimoli, tornata bambina per certi versi. Il sodalizio con Streller è giunto al capolinea e vuole gettarsi nella scoperta della musica leggera. Incontra in questo periodo un altro grande amore della sua vita, Gino Paoli. Paoli è il maestro delle canzoni d'amore, un genere del tutto nuovo alla ragazza della Mala. Ci si butta anima e corpo, sentendosi sempre un interprete che delega la scrittura e il componimento, sebbene ogni tanto si cimenti anche in quello. E che, semplicemente, canta più volentieri le canzoni degli altri, quelle di Gino in particolare. Scusa, mi scriveresti una canzone? Sì, forse lo scrivo. Torno dopo l'appuntamento e lui aveva già... Senti questa, mi fa. E mi fa sentire Senza fine, senza testo. Poi ci ha messo 6 mesi per scrivere il testo. E noi abbiamo camminato per mesi. Io coi tacchi, che non rinunciavo mai ai tacchi. Sempre coi tacchi, sempre dietro a Paoli. Un mal di piedi. Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Tutto ormai nelle tue mani. Mani grandi, mani senza fine. Gino Paoli e Ornella Vanoni sono una coppia speciale sul palco e nella vita. Molto diversi, lei della Milano Bene e lui di estrazione proletaria, cercano tutti e due un modo per esprimersi più che il successo fine a se stesso. Le loro voci insieme, lui così malinconico, lei così intensa, fanno venire i brividi. Dei due lui è il poeta e lei l'interprete che rende grande ogni suo pezzo. Alchimia, la definisce Paoli, ribadendo che cantare insieme è imparare l'uno dall'altro. Sono uniti da sempre, senza rimpianti né rancori, semplicemente consapevoli che sono importanti l'uno per l'altro. Una volta torno a casa, la cameriera mi dice: ha telefonato Paoli? Oh, Madonna, sai cosa è successo? È morto. Chiamo, mi risponde la moglie, perché Gino non risponde, e mi dice: ha detto Gino che sente che in questo momento tu stai male. Non sei mai stata così bene. Cioè... E anche per via di Paoli che negli anni 60 si mormora che ci sia una grande rivalità tra Lavanoni e Mina. Non tanto sentimentale quanto perché lui, per La Tigre di Cremona, scrive Il cielo in una stanza, che diventa il 45 giri più venduto dell'anno e sfiora i 2 milioni di copie. Ma d'altra parte Lavanoni, con l'autoironia che le appartiene, scherza spesso sul fatto di non essere molto brava a scegliere le canzoni, neanche quando gliele propongono. Cioè, io ho detto alla mia mamma: senti, io Grande Grande non lo canto perché mi fa pensare a quella cosa lì, mi sembra molto volgare. Mina e Lavanoni sono due belle donne, cantanti straordinarie, si contendono autori di testi, compositori, pubblico. I colleghi fanno a gara per cantare con una e con l'altra. Naturale pensare che tra loro non corra buon sangue, che ci sia almeno una punta di invidia quando l'altra ha più successo. E invece Ornella ha sempre detto di no, niente di più falso. Eravamo due cantanti totalmente opposte. Non siamo mai state nemiche, io e Mina, ma proprio mai neanche un minuto. La popolarità di Ornella Vanoni, che fa fatica all'inizio a passare dal teatro impegnato al favore del grande pubblico, viene aiutata dalla canzone napoletana. È successo ad altri. È un genere talmente amato che se riesci a farti conoscere anche con quello, la tua carriera è in qualche modo aiutata. Soprattutto se sei un interprete più che un autore, proprio come Lavanoni. Siamo a un magnifico incontro del destino, quello con Domenico Modugno. È una grande soddisfazione cantare nelle piazze, perché io trasferisco su tanta gente tutte le mie emozioni e loro me le ridanno in energia, perché è un, quando si canta, quando si fa spettacolo, uno scambio di energie, di amore, no? I magnifici destini. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ti voglio tanto bene che un mondo mi appartiene. Ai magnifici destini siamo all'inizio degli anni 60. Ornella Vanoni, milanese doc, profondamente attaccata alla sua città, ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro, dove è stata lanciata da Streller come interprete delle canzoni della Mala. Musica impegnata, difficile, un genere molto poco popolare, tanto che dopo un po' si è stufata. È andata alla ricerca di leggerezza, canzoni d'amore, ironia. Quando io facevo le canzoni della Mala, che poi sono state chiamate di protesta, diciamo così, impegnate, come diavolo si sono chiamate, allora la diffusione era pochissima. Potevo cantare nelle università, nei teatri del popolo, al Gerolamo come massima cosa. Era proprio per un'elite, era per pochissime persone. La mia necessità era quella di incontrare un pubblico maggiore, più grande. Fa fatica a farsi amare. C'è una specie di muro tra lei e il popolo, perché il popolo la vede come una rappresentante di una classe sociale diversa. Poi l'incontro con Gino Paoli, di quelli che lasciano il segno. Lui per lei scrive senza fine e nasce una storia che si trasforma in amicizia e che dura ancora oggi. Anche se Paoli al telefono non risponde mai. I cantanti che rispondono al telefono sono Morandi, Dalla, Battiato, pochi. E altri... Deve passare ore, anni, non ci sono, non rispondono, c'hanno il telefono. Nel 61 Lavanoni è canzonissima con il brano Cercami. L'anno dopo diventa Rosetta in Rugantino di Garinei e Giovannini e arriva perfino sulle scene di Broadway. La sua anima è scissa tra musica e teatro. Non riesce a fare una cosa abbandonando completamente l'altra, perché sente che in ognuno di questi mestieri c'è qualcosa di buono da portare nell'altro. Ma io sono una persona privilegiata in questo senso, perché posso scegliere tra due mestieri che io ritengo anche molto simili, ma comunque due, che sono la prosa o la commedia musicale, comunque il teatro e la canzone. Forse è anche per questo che le piace la musica napoletana, perché è teatrale, perché la teatralità fa parte della vita nella città partenopea. Siamo nel 1964, metà ottobre. Ornella Vanoni si presenta in coppia con il grande Domenico Modugno al Festival di Napoli. Cantano Tu sì una cosa grande, che presto sarebbe diventato un brano così famoso da essere considerato un classico. Stravincono. Nella foto che li immortala al momento della premiazione, lui sorride alla sinistra di un giovane Mike Bongiorno, elegantissimo nel suo completo scuro, con i baffetti tagliati sottili. Lei, dall'altro lato di Mike, è emozionatissima. Con un sorriso che illumina, i capelli mossi sciolti sulle spalle e un vestito di raso che la fascia in vita, incarna pienamente l'idea stessa di fascino. Intanto uno non ce l'ha, il fascino non ce l'ha, perché quello lì non si inventa, si inventa. Si può persino inventare la bellezza, ma il fascino no. Quello lì poi non passa neanche con gli anni. Tu puoi avere 90 anni e essere affascinantissimo. Però è raro, il fascino è raro, è una cosa che di fatto ti spiazza. Perché quando tu guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando. Intelligente, incontentabile, sempre insoddisfatta, nonostante gli incredibili risultati raggiunti. E poi di classe. Una classe ereditata dall'esperienza del piccolo, che le consente di essere sensuale senza mai apparire volgare. Ornella Vanoni, anche oggi che ha alle spalle più di mezzo secolo di carriera, non si è ancora stancata di sperimentare, di incontrare i colleghi, di esibirsi per il suo pubblico. Aznavour a 82 anni ha fatto un concerto strabiliante. Sono gli italiani che si stupiscono. Io ho un dono, il dono della voce, e lo uso. Se non lo uso, non sono felice. Non le piace Sanremo, o meglio, non le piace più. Oggi ha un po' perso quella magia del grande evento che aveva negli anni d'oro, quando le cantanti su quel palco si sentivano regine. 1965, Abbracciami forte. 1966, Io ti darò di più, enorme successo commerciale. 1967, La musica è finita, di Franco Califano. Ogni volta la Vanoni è un'attesa protagonista. Ambisco, finché sono viva, ambisco di essere ascoltata, dopo onestamente. Io ti darò di più, io ti darò di più, di tutto quello che avrò da te, anche se tu mi amerai come non hai amato mai. Io ti darò di più, molto di più. Teatro, musica e poi televisione. Arriva a Studio 1, Mille Luci, insomma i grandi varietà. Io ho fatto una fatica tremenda, perché ogni volta che dovevo affrontare il pubblico io morivo, cioè ma ce la farò un giorno o l'altro. E piano piano si sono abituata a me, si sono abituati loro a me, e io a loro, io mi sono lasciata un po' andare. Ed è vero, bisogna lasciarsi un po' andare col pubblico. Negli anni 70 è la volta di un altro magnifico incontro del destino per Ornella Vanoni, quello con il cantante brasiliano Roberto Carlos. Un uomo che ha una storia particolare. Ultimo di quattro fratelli, figlio di un orologiaio e di una sarta, ha imparato a suonare la chitarra a orecchio da bambino. A 9 anni, la prima gara musicale in radio, spinto da sua madre, vince il primo premio, un pacchetto di caramelle. Poco più tardi, un terribile incidente ferroviario che gli costa l'amputazione di una gamba e una protesi artificiale. E poi, piano piano, il successo in patria, con le imitazioni di Elvis Presley, la conduzione di un programma TV e il primo impatto con l'Italia. Quando nel 67 lo invitano a Sanremo, conquista tutti in coppia con Sergio Endrigo. Roberto Carlos è creativo, sofisticato e porta con sé una cultura che il bel paese ha scoperto ancora poco. Ornella Vanoni, quando lui le propone di scrivere per lei, non se lo lascia scappare. Mi amo moltissimo la musica brasiliana, che non è una cosa felice e zompettante come possono tutti pensare, ma possono essere anche delle canzoni molto tristi, molto intense e molto felici, così come sono i brasiliani, no? Passano dalla vita alla morte molto più velocemente e più intensamente di noi. E così, dopo aver riscosso un buon successo con il brano L'Eternità, la Vanoni incontra Roberto Carlos per farsi dare il pezzo che lui le ha promesso. Si intitola L'Appuntamento e l'ha scritto con Erasmo Carlos e Bruno Lauzi. Il successo commerciale è grandissimo. Il singolo conquista la prima posizione in Hit Parade e ci rimane per diversi mesi, vendendo qualcosa come 600.000 copie. Io mi annoio sempre queste cose. Cioè, a me piace divertirmi, cambiare, sentire. Poi perché negare? Una cosa, se è bella, è bella. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Il fortunatissimo brano L'appuntamento diventa un omonimo programma televisivo che Lavanoni conduce insieme a Walter Chiari. Non è il suo unico incontro con il mezzo che entra nelle case di tutti gli italiani. Dal Mulino del Po, sceneggiato che ha appassionato centinaia di migliaia di spettatori, a Mille Luci, il grande varietà, la signora della musica è anche una grande protagonista della cultura italiana. Io vorrei sapere quale di queste tre attività le dà più soddisfazione. Un long plan, un recital teatrale oppure una commedia musicale come il Rugantino? Beh, sono tre cose molto diverse. Il long plan ti dà soddisfazione nell'attimo in cui lo fai, lo crei. Finito il prodotto non ti interessa più. Lo spettacolo diretto così di canzoni, dove io per esempio canto per due ore da sola, è molto bello perché è una specie di vittoria tutte le sere, se hai successo con il pubblico, è un dialogo diretto, una soddisfazione particolare. Rugantino, che non è la mia unica esperienza teatrale perché ho fatto anche prosa, è una forma di spettacolo che a me particolarmente non interessa più. Nonostante la timidezza non l'abbia mai abbandonata, almeno fino agli ultimi anni, Ornella Vanoni è sempre stata una donna molto diretta, senza peli sulla lingua. Intelligente e ironica, le cose non le ha mai mandate a dire, neanche ai critici. Come la volta in cui, durante un suo spettacolo, un uomo le urla dal pubblico «Sei bravissima!» e lei gli chiede di tacere. Luzzato Fegiz, che è in sala il giorno dopo, scrive che la Vanoni è meravigliosa ma antipatica. E lei lo chiama subito. Altro esempio. Di solito gli artisti tendono a non dire chi sono i colleghi che stimano di più, giusto per non creare polemiche. Lavanoni no, lei l'ha sempre detto. Paoli che continua a piacermi. Dalla, che è successo da 2 anni, ma che per me appartiene agli autori di prima, perché in fondo sono tanti anni che spinge per finalmente farsi capire, essere apprezzato. De Gregori, De André, quante idee che ci abbiamo. Bennato. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. I magnifici destini. Ai magnifici destini la nostra protagonista è Ornella Vanoni. Sulla scena da più di mezzo secolo ha segnato la storia italiana con le sue canzoni, ma anche con la sua personalità fuori dagli schemi. Ironica e autoironica, impetuosa, diretta, ha sempre detto quello che pensa, nonostante una timidezza cronica che fino agli ultimi anni le ha impedito di salire sul palco con totale leggerezza. Il fatto che abbia cominciato in teatro con Streller è fondamentale per la sua carriera. Ha fatto fatica a trasformarsi da cantante intellettuale a star popolare, è vero, ma l'esperienza al piccolo le ha dato quella classe che si porta dietro ancora oggi. Le canzoni della Mala, l'incontro con Paoli, il festival di Napoli con Modugno e poi ancora le canzoni che trionfano a Sanremo, gli amori, il brasiliano Roberto Carlos che le scrive L'appartamento, un enorme successo commerciale. La vita di Ornella, una bellissima ragazza, come titola la sua autobiografia, è tutta da raccontare. Adesso c'è qualcuno che piace a noi e piace a voi, con il suo fascino, con la sua musica, la bella Ornella Vanoni. Tra la televisione e le canzoni con i New Trolls, la Vanoni posa anche nuda per la versione italiana di Playboy. Sarebbero disposti a offrire qualunque cifra per avere la grande star italiana, ma lei, al posto del denaro, chiede come compenso una sfera di Arnaldo Pomodoro, con il quale nasce una profonda amicizia. Arriva anche la fama internazionale. Ornella Vanoni realizza, con la collaborazione di Sergio Bardotti, un prestigioso album con Vinicius de Moraes e Toquinho. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Interamente registrato in presa diretta, l'album ottiene un enorme successo sia di critica che di pubblico. Alcuni cantanti italiani hanno successo in alcuni paesi stranieri, fanno una vera carriera e hanno successo. Però un successo totale in tutto il mondo è quasi impossibile, perché il mondo è dominato dalla lingua inglese. Quindi, e in parte spagnola. Dopodiché per tutti gli altri è molto difficile. Per noi italiani poi, che non sappiamo sostenerci nel nostro paese, è molto difficile saperci sostenere fuori. I francesi hanno più scuola in questo senso. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare. Sensuale, di classe, fascinosa, per Lavanoni tutto deve essere al massimo e all'insegna del buon gusto. A metà degli anni Ottanta torna in teatro con Albertazzi, riscuotendo critiche lusinghiere, e riparte in tour da sola, curando personalmente ogni aspetto. Per le scenografie chiama Arnaldo Pomodoro e Gian Ruggero Manzoni, per i costumi lo stilista Gianfranco Ferré, e si sposta sempre di più verso il teatro canzone. Ma io, vedi, io faccio così volentieri questo mestiere di cantante, proponendo gli spettacoli d'un taglio teatrale, tante piccole commedie di 3 minuti o 4 a secondo, dove io posso gettare il mio umore molto meglio che in una commedia, che quando il personaggio è fissato non può cambiare. Mentre cantando, quando uno è triste calca la mano sulle canzoni, quando uno è allegra può cambiare, ci sono delle sfumature che in teatro non si possono avere. Due amici che collaborano anche nel lavoro. È così che Ornella Vanoni descrive il suo magnifico incontro con Mario Lavezzi. Compositore e cantautore, lui ha prodotto alcuni dei suoi album più recenti e firmato diverse sue canzoni, Insieme a te, Stella nascente, Per l'eternità, solo per citarne alcune. Anche Lavezzi è un protagonista della musica italiana, è stato nei Camaleonti, che ha lasciato per fare il servizio militare, e al ritorno, nel 68, ha incontrato Mogol e ha iniziato la sua carriera di autore, scrivendo come pezzo d'esordio la bellissima Il primo giorno di primavera. Lavezzi Lavanoni la conosce molto bene, nei suoi pregi e nei suoi difetti. È per questo che lei, esigente e sempre insoddisfatta di lui, si fida moltissimo. Ornella ha sempre fatto una ricerca abbastanza sofisticata, no? Che rischiava di essere anche di elite, no? Quindi meno popolare, no? Però è una scelta determinata dalla sua cultura, che non gli permette di fare delle cose che lei non condivide, comunque che non le piacciono profondamente. Ornella Vanoni, diva eclettica per eccellenza, si reinventa come autrice. Non c'erano grandi proposte che arrivassero sul tavolo, si giustifica quando le chiedono come mai sia passata da pura interprete a cantautrice. In ogni caso, lei preferisce l'esibizione. I duetti, quelli, le piacciono moltissimo. Vecchioni, Bertoli e naturalmente ancora Gino Paoli. Quello che è stato per me lo si può intuire e lo si può soprattutto sentire dalle canzoni che canto. Quando canto con lui o anche quando canto senza di lui. È fatta di eterni rilanci la carriera di Ornella Vanoni. Da più di 50 anni sulla cresta dell'onda, con una voce che col tempo si è fatta più roca, un'impronta sofisticata che non è mai cambiata e un carattere sempre indipendente, focoso. La sua notorietà è cresciuta ancora nel 2004, quando l'appuntamento è stato inserito nella colonna sonora di Ocean's 12, diretto da Steven Soderbergh. Va ancora in TV, ma a farsi intervistare. Chiacchiera volentieri della sua vita, della sua storia, degli incontri che l'hanno cambiata. E naturalmente della musica. La grande passione per la musica. Poi si stava insieme, si andava in vacanza magari 20 giorni, ognuno con il proprio compagno, e si scriveva, si rideva, si mangiava, e si scrivevano delle belle canzoni.